sembrava impossibile potesse capitarmi, e invece mi è successo veramente, veramente, veramente, veramente. Facevo finta di fregarmene di te per rendermi più interessante, ma adesso sono solo veramente, veramente, veramente. Veramente.